squarciagola, ti dirò che t'amo, ma sottovoce chiederò soltanto un po' di simpatia. Baciarti è un sogno che mi fa impazzire e lentamente mi farà morire di malinconia. In tutti i jukebox, nei dancing, nei bar, ovunque sentirai un grido di dolore, lì, proprio lì scoprirai il mio amore. A squarciagola ti dirò che t'amo, ma sottovoce chiederò soltanto un po' d'amor per me. Nei bar, ovunque sentirai un grido di dolore, lì, proprio lì scoprirai il mio amore. A squarciagola ti dirò che t'amo, ma sottovoce chiederò soltanto un po' d'amor per me.